Jan Berkin di Group Yorum, questa è stata la nostra canzone di introduzione. Noi siamo le Ribelli e sono le 18:34 e oggi la puntata si chiama Corpi Violati E parleremo con delle nostre compagne, delle nostre amiche, delle ragazze che ci stanno ascoltando in questo momento. E le chiameremo Nuove per voci, nuove nuove voci. voci, esatto. Sentiremo delle nuove voci su Radio ZM per la prima volta stasera, quindi c'è un po' di emozione nell'aria. Eh sì. Sentiremo dei racconti, delle poesie. È una puntata un po' artistica. Esatto, sì, questo volevo dirlo anch'io. Sì, ci fa molto piacere perché è nata proprio da una voglia di esprimersi di alcune ascoltatrici, alcune persone che ci hanno scritto e ci hanno contattate e hanno creato questa puntata insieme a noi, il che È sì, bellissimo. è veramente molto molto bello. Quindi è una puntata speciale, secondo me. Molto, sì. Parleremo di corpi, quindi il corpo, i corpi violati, nell'arte, nel mondo dell'arte, nella poesia e nel mondo della disabilità. Questa è la puntata, più o meno. E direi che prima di cominciare la scaletta possiamo ricordare i nostri canali. Allora, adesso abbiamo i bigini sotto Vai, forma gioia. di pagine già aperte. Allora, abbiamo il canale Telegram, giusto? Telegram, sì. Potete scriverci quindi a chiocciola radiozam trattino basso chat. E qualsiasi cosa, qualsiasi contributo, pensiero, commento, ce lo potete scrivere e noi lo riporteremo in diretta, Se volete. qualora lo voleste. Oppure potete scriverci sulla pagina Facebook di Radio ZAM e per ascoltare i podcast abbiamo il canale di Archive E anche sul sito di ZAM, e anche il sito di che ZAM. si sta sistemando. Quindi, cioè, ci sono tutte le registrazioni, tutti i podcast sul sito di ZAM. E anche la fascia, non so come si chiama, dove si può anche ascoltare la radio. Quindi, Wow, top. E c'è anche ok. Instagram, io non ce l'ho, C'è anche quindi Instagram e grazie Cigo grazie Cigo. e grazie alle DJ che oggi ci ha fornito delle splendide tracce. Andiamo con la prima, la seconda, Con anzi. la seconda. Allora, di Aretha Franklin, You Make Me Feel Like A woman. a Woman. Looking out on the morning rain. I used to feel so uninspired. And when I knew I had to face another day, Lord, it made me feel so tired. Before the day I met you, life was so unkind. You make me feel, you make E voilà. Voilà, eccoci qui. Allora, come abbiamo già anticipato, adesso iniziamo con la scaletta. Il primo intervento è quello di Giulia. Esatto, ci racconterà chi è Rupi Kaur e ci leggerà delle sue poesie, credo, dei suoi racconti. È per me una novità poetica, intendo. Funziona. Eccola, Giulia. Ciao, sì, Ciao ci Giulia, sono. Ciao buonasera. bellissime, come state? Bene, tu? Bene, bene, Sei un tutto a po' posto. emozionata che cioè, sei Un sempre stata l'unica a po'. scriverci su Telegram, a commentare, a mandarci messaggi. Adesso sei qui con noi in radio, bellissimo. Sono molto emozionata anche di avervi conosciute, siete delle star. Troppo buona. No, sono molto molto contenta di, insomma, avervi incontrate virtualmente, ovviamente, e insomma di aver anche partorito tutte insieme questa puntata. Sono molto contenta. Anche noi, Anche sì. noi. E soprattutto di potervi parlare di, e presentare a tutti, a tutte, Rupi Kaur. Sono... Esatto, perché noi già un po' sappiamo, perché ci anticipate, ma... Bisogna spiegarlo anche Sì, a chi ci esatto, ne ascolta. vale davvero la pena. Sì. Vado, Vai, spiego vai. chi è un pochino. Sì. Ok, allora, lei è una poetessa, un'artista. Canadese, ma di origini indiane, viene dal Punjab per l'esattezza, e quindi la sua cultura è la cultura Sikh. Vabbè, non entro nei dettagli. Comunque, ritroviamo un po' la sua cultura nei testi che tra poco vi descriverò. Lei è molto giovane, possiamo dirlo, perché ha più o meno la nostra età, Direi quindi assolutamente sì. giovanissima. Lei è del 1992 e si è trasferita in Canada quando aveva 4 anni, quindi nelle sue poesie ritroviamo anche tutta la parte legata alle migrazioni, allo spostamento, al vivere in un nuovo territorio, però oggi non è l'argomento di oggi. Lei è diventata famosa grazie a Instagram. E la cosa, come sempre, assurda è che lei su Instagram non ci voleva andare, cioè lei non voleva pubblicare le sue cose sui social network perché aveva paura di essere un po' giudicata, criticata e quant'altro. E per fortuna però i suoi amici, le sue amiche, le hanno detto che proprio per questa sua paura lei doveva darsi voce e doveva pubblicare le sue poesie, i suoi disegni. Su Instagram, infatti così è stato, ha avuto moltissima risonanza, ha fatto anche dei progetti per cui è stata criticata, come tutti gli artisti, e poi appunto ha trovato la sua dimensione, adesso è molto attiva anche durante la quarantena, ha fatto tante dirette, laboratori di scrittura e quant'altro. Quindi è sicuramente una donna molto attiva e tratta varie tematiche nelle sue poesie. Dal femminismo, dalla violenza, che è appunto il tema di oggi, dalle migrazioni, l'educazione, la sessualità, insomma, tantissime tematiche. Scrive in inglese, quindi Il primo magari ostacolo, insomma. qualcuno può avere difficoltà, però i suoi libri sono stati anche tradotti in italiano. Comunque. Lo dico per chi volesse seguirla, su Instagram è tutto in inglese, per cui potrebbe essere un incentivo per studiare anche un pochino di inglese. E io sono Così, lo un'insegnante. dici così, giusto per, senza interesse alcuno, ecco. Perché Giulia, tu cosa fai nella vita? Io insegno inglese e italiano, Ah, quindi. ecco. Esatto. E allora lei. Oggi ho pensato di leggere tre poesie, le leggerò prima in inglese e poi in italiano. Il linguaggio che lei usa è molto diretto, quindi non usa mezzi termini, va dritta al punto, diciamo, e descrive le cose per quello che sono, senza mezzi termini. Dicevo che nella sua poesia si ritrovano le sue origini perché lei scrive senza usare le lettere maiuscole, cosa che si ritrova nella sua lingua d'origine, e in questo modo dà a tutte le parole ugual valore, proprio come lei pensa che a tutte le persone dovremmo dare ugual valore, e lei Bellissima dà questa ugual cosa. valore a tutte le parole. La prima poesia, le prime due poesie sono brevi e sono prese da Milk and Honey, che è il suo primo libro, quindi latte e miele, e anche qui ritroviamo la sua cultura d'origine perché sia nella cultura Sikh che in tante altre culture medio orientali il latte e il miele sono due ingredienti usati per curare il corpo. E quindi il titolo è molto molto significativo. Perché in questo libro lei ci parla della violenza sessuale che ha subito quando era adolescente e ci porta con lei in un processo di sofferenza e poi di guarigione attraverso quattro capitoli. E quindi il titolo ci fa proprio vedere come lei sia riuscita a guarire. Da questa violenza sul suo corpo, andando a identificare il suo corpo proprio come la sua casa. Questo è un po' il senso del libro. Lo consiglio, è molto bello. Se siete d'accordo, vi leggo le prime due. Certo. Allora, le prime due fanno riferimento proprio allo stupro e lei decide di dare una definizione di stupro. Non utilizzando alcun genere, questa cosa la reputo molto, molto interessante, molto forte, nel senso che in inglese lei usa il plurale, e il plurale in inglese non ha genere, perché in plurale non c'è maschile e femminile, proprio per ricordarci che appunto la violenza sul corpo può essere anche su un corpo maschile, non soltanto su un corpo femminile. Certo. Ve la leggo in inglese e poi in italiano. Vai. Sex takes the consent of two. If one person is lying there not doing anything, because they are not ready, or not in the mood, or simply don't want to, yet the other is having sex with their body, it's not love, it's rape. E in italiano è così. Al sesso bisogna consentire in due. Se una persona è lì sdraiata, senza far niente, perché non è pronta o non se la sente o semplicemente non vuole, ma comunque l'altra fa sesso con il suo corpo, non è amore, è stupro. Quindi questa è una poesia che si trova a pagina 22, quindi è proprio all'inizio. Nel capitolo che parla appunto della rottura, no? Della rottura del suo corpo. Tra l'altro è proprio diretta, chiarissima. Sì, proprio la caratteristica dei suoi scritti è essere diretta, senza mezzi termini, è per questo che è stata molto criticata anche nell'ambiente letterario, insomma. Però una certa le cose vanno No, dette, certo. Se no, se poi non si capisce neanche il messaggio, mi chiedo anche a che cosa serva. Sì, esatto. E poi la cosa curiosa, appunto lei, poi ci sono, passa la pagina 23, la pagina 24, la pagina 25, sempre nella tematica della rottura della distruzione, e poi a pagina 26 ci sono pochissime righe che però mi sembravano significative cioè, e sono queste. Allora, the rape will tear you in half, but it will not end you. Quindi lo stupro ti strapperà in due, ma non ti cancellerà. Quindi vediamo come lei già dalle prime pagine comunque trasmette una speranza che poi si svilupperà nel corso del libro, delle sue poesie. E sono meravigliose perché sembra veramente di essere lì con lei e sentirla parlare di questa sua esperienza e proprio lo leggi d'un fiato, in mezz'ora hai finito il libro, è veramente, veramente Ne bello, quindi lo consiglio. No, tra l'altro appunto su questa poesia mi viene da dire che chiaramente uno stupro ti annienta. Cioè a me viene questo in mente quando devo immaginarmi emotivamente cosa sia uno stupro. A me viene questa come parola che descriva un po' il sentimento. Ed effettivamente nelle sue parole sì, si sente questo, ma allo stesso tempo tu rimani. Cioè, Sì. non sai, quindi... Sì, è un messaggio di speranza, sì. È anche molto bello, come dicevi all'inizio, che lei abbia ritrovato la sua casa nel suo corpo, nel proprio corpo, no? Sì, esattamente. Infatti questo concetto è un concetto fondamentale nelle sue poesie, la consapevolezza di se stesse. Per lei è fondamentale il fatto di amarsi pienamente, di amare ogni parte del proprio corpo, anche quelle che vengono considerate dagli altri, dalla società brutte, o che noi vediamo brutte. Lei dice che bisogna accettare tutto di sé, e questa cosa è molto bella. E c'è molto nel suo secondo libro. Il primo libro esce nel 2015, il secondo libro esce nel 2017, è un po' più lungo. E tratta anche delle tematiche diverse, nel senso che lei riprende la tematica del primo libro e della parte che leggerò adesso, ma poi tratta anche altri temi che sono quelli anche molto magari, scusate, ma più banali, insomma, di una relazione finita male, di quanto ci si sente male dopo una relazione e del ritrovarsi, rinnamorarsi di se stessi o rinnamorarsi di un'altra persona. Però all'interno di queste poesie che possono sembrare banali, poi c'è sempre di fondo spesso il tema della donna sottomessa, anche a livello mentale, da parte di un uomo, di una persona comunque più forte, che può essere più forte di lei caratterialmente o che magari ha delle abilità, non so, mentali per farle del male. Quindi c'è anche la questione, che poi tra l'altro vedremo più avanti, della violenza mentale, non soltanto fisica, che una persona può subire. Certo. E sì, scusate. Vuoi leggerci la terza poesia? Sì, allora qui ho praticamente deciso di leggervi un passo parto dalla metà di questo passo, che è abbastanza lungo, in cui lei proprio fa capire il suo concetto di corpo come casa. Lei qua ha appena parlato della sua esperienza di violenza sessuale, in cui praticamente descrive come se il suo stupratore le avesse distrutto la sua casa e quindi la sua casa adesso fosse completamente vuota. Allora vi leggo questa parte e poi appunto, ve la leggo in italiano. È un pochino più lunga, spero di fare in Tranquilla. tempo. Ok. When you broke into my home, it never felt like mine again. I can't even let a lover in without getting sick. I lose sleep after the first date, lose my appetite, become more bone and less skin, forget to breathe. Every night my bedroom becomes a psych yard where panic attacks turn men into doctors to keep me calm. Every lover who touches me feels like you. Their fingers, you, mouth, you. Until they're not the ones on top of me anymore. It's you. And I'm so tired of doing things your way. It isn't working. I spent years trying to figure out how I could have stopped it. But the sun can't stop the storm from coming. The tree can't stop the aches. I can't blame myself for having a hole the size of your manhood in my chest anymore. It's too heavy to carry your guilt. I'm setting it down. I'm tired of decorating this place with your shame. And if it belongs to me, it's too much to walk around with. What your hands have done, it's not my hand that has done it. The truth comes to me suddenly, after years of rain. The truth comes like sunlight pouring through an open window. It takes a long time to get here, but it all comes full circle. It takes a broken person to come searching for meaning between my legs. It takes a complete, warm, perfectly designed person to survive it. It takes monsters to steal souls and fighters to reclaim them. This home is what I came into this world with. Was the first home, will be the last home. You can't take it. There is no space for you. No welcome mat, no extra bedrooms. I'm opening all the windows, airing it out, putting flowers in a vase in the middle of the kitchen table, lighting a candle, loading the dishwasher with all my thoughts until they are spotless, scrubbing the countertop. And then I plan to step into the bathtub, wash yesterday out of my hair, decorate my body in gold, put music on, sit back, put my feet up, and enjoy this typical Thursday afternoon. Ve la leggo in italiano? Sì. Quando ti sei introdotto nella mia casa, non l'ho più sentita mia. Non riesco a far entrare neppure un amante senza avere la nausea. Perdo il sonno dopo il primo appuntamento. Perdo l'appetito. Divento più ossa e meno pelle. Dimentico di respirare. Ogni notte la mia camera diventa un manicomio, dove gli attacchi di panico trasformano gli uomini in medici che mi devono tranquillizzare. Tutti gli amanti che mi toccano mi sembrano te, le loro dita, te, la bocca, te, finché non sono più loro a stare su di me, sei tu. Io sono così stanca di fare a modo tuo, non funziona. Ho passato anni a cercare di capire come avrei potuto fermare tutto questo. Ma il sole non può fermare la tempesta, l'albero non può fermare l'ascia. Non posso più incolparmi di avere in petto un buco della taglia del tuo membro. Pesa troppo la tua colpa. Adesso la metto giù. Sono stanca di arredare questa casa con la tua vergogna, come se appartenessi a me. È troppo ingombrante da portare con me. Ciò che hanno fatto le tue mani, se non sono state le mie ad averlo fatto. La verità mi appare all'improvviso, dopo anni di piogge. La verità mi appare come il sole, che si riversa da una finestra aperta. Ci vuole tempo per arrivarci, ma alla fine il cerchio si chiude. Ci vuole una persona lacerata che venga a cercare un significato fra le mie gambe. Ci vuole una persona completa, integra, perfettamente progettata per sopravvivere a tutto questo. Ci vogliono mostri per rubare delle anime e combattenti per rivendicarle. Questa casa è quella in cui sono venuta al mondo. È stata la mia prima casa, sarà anche l'ultima casa. Tu non puoi prenderla, non c'è posto per te. Per te non c'è il benvenuto sullo zerbino, non c'è una camera per gli ospiti. Apro tutte le finestre per arieggiare, metto fiori in un vaso al centro del tavolo della cucina, accendo una candela, carico in lavastoviglie tutti i miei pensieri finché non escano immacolati, strofino le superfici piane e poi ho intenzione di entrare nella vasca da bagno, lavar via ieri dai miei capelli, arredarmi d'oro il corpo, mettere della musica, distendermi, sollevare i piedi e godermi questo giovedì pomeriggio qualunque. È meravigliosa. Sì. Questo io consiglio a tutti di vederla in video, realizzata da lei, che ovviamente è molto più, cioè lei è bravissima, la trovate su YouTube, su TED, mi riprendo il mio corpo, lei ha anche una gestualità molto forte perché nei suoi libri ci sono molti disegni che lei ha fatto molto molto incisivi e ovviamente nella performance dal vivo lei cerca di riproporre quegli disegni con i gesti delle mani, del volto e del suo corpo. Vi consiglio di vedere il video perché è veramente bello e toccante, sicuramente. Già, così. Bene, comunque è molto potente, devo dire che è davvero sì. molto potente, anche perché parla di qualcosa che effettivamente abbiamo tutte e tutti, che è il nostro corpo, trascurato probabilmente, sì, in questo caso violato, che ritrova, sì, se stesso, che ritrova una cura, no? Lei, sì, probabilmente anche tramite l'arte, le performance, la poesia, sì, sì, è riuscita a darsi una cura, a cambiarsi, esatto, anche del proprio corpo. Esatto, esatto. Sì, esattamente, esattamente. Infatti lei lo dice sempre in tutte le interviste, che grazie all'arte, alla poesia, al disegno, insomma, tutto, lei si è proprio riappropriata del suo corpo, di se stessa, e ha capito che il suo corpo è la sua casa. Questo è qualcosa di molto forte, e che lascia anche una riflessione, penso, aperta a tutte, a tutti noi. Sì, sì, assolutamente. Tra l'altro, a questo punto, diciamolo, abbiamo utilizzato proprio uno dei suoi disegni per sì, la grafica della nostra puntata. Sì, esatto, esatto. Così si può intendere anche cosa proprio lei disegna in modo incisivo, ecco, direi. E Giulia, prima di salutarti, noi vorremmo dire una cosa che sicuramente ti farà molto piacere. Un'altra ascoltatrice ci ha scritto su Telegram, e sì, si chiama Paola, e Paola ti, sì, saluta e dice che sei una English teacher favolosa e pensa parte, che il tuo intervento sia stato molto interessante. Sì. Grazie, grazie Paola. Sei già una fan. Tra l'altro Paola ve la farò conoscere, perché lei è un'artista molto interessante. Fantastico. Siamo pieni di artisti conoscere adesso. Sicuramente, sicuramente sì. Nonché collega amatissimo. E volevo anche ringraziare l'amica che mi ha fatto conoscere Rupi Kaur, che ci ascolta da Barcellona, che è Selva. E grazie a lei ho conosciuto questa meravigliosa artista e poetessa femminista, che è Rupi Kaur. Vi consiglio di, insomma, di leggerla e di farla vostra, perché la poesia è un po' così, no? Certo. Si fa nostra. Grazie mille, grazie mille. Grazie Giulia. Grazie a voi ragazze. A presto. Ciao Giulia, un ciao, abbraccio. Ciao, ciao. Ok, allora direi che possiamo ascoltare una canzone, così magari ci rilassiamo un attimo dopo queste poesie meravigliose, bellissime, ma anche molto davvero forti. Bellissime. E ascoltiamo Body Funk dei Purple Disco Machine. you lose control. Work your body to the beat. Body work will set you free. E bentornate, bentornati. Bentornate, bentornati. Niente, mi sono persa un attimo, quindi ho dovuto ripetere quello che ha detto Martina. Succede. Quando uno sta alla regia, fino a un tot di cose riesce a fare contemporaneamente, infatti. Ma poi arriva il momento di sfado. Ok, grazie le DJ per le tracce. Questa era davvero una bomba. Sì. E vabbè, allora continuiamo con la scaletta, direi. Sì, direi di sì, dopo le poesie di Rupi Kaur. Tra l'altro avevamo scelto, non so se l'abbiamo detto, di leggerle in inglese perché la poesia originale era in inglese, quindi ci sembrava che anche a Giulia soprattutto, che ce le ha portate e ci ha fatto questo regalo immenso, che insomma il suono della poesia cambiasse radicalmente. Poi per chi sa l'inglese avrà goduto il doppio. Però okay. Adesso invece non cambiamo chiaramente totalmente argomento. Ci sarà un'altra nuova voce a Radio ZM per la prima volta. E di che cosa ci parlerà Gioia? Allora, ascolteremo Andrea, che ha preparato per noi un intervento che ha intitolato come Il corpo che guida il popolo, e quindi ci parlerà un po' della riappropriazione del corpo come uno strumento politico. Ciao. Ehi Andrea, ciao. Ciao. Buonasera. Ci senti? Buonasera. Sì. Ok. Perfetto. Come va? Perfetto. Ok. Ora vi sento. Okay. Bene. Raga, che pezzone che avete messo. Complimenti. Merito di Lady J, che le ringraziamo ancora. Benvenuta anche tu per la prima volta su Radio ZM. Al programma grazie, delle ribelli. Mille. Anche tu sei una ribelle. Oh, finalmente. Finalmente. Grazie, ragazze. Come ci si sente ad essere ribelle? Molto bene, ma ho un sacco di ansia, vi devo ma dire. No. E vi faccio due premesse. Ho una S sibilante del cazzo, fastidiosissima, e due, ho l'accento da Brianzola. Ma va, ma Andrea, ma io c'ho l'R rossa, ma mi senti? Cioè, se non possiamo starci noi in radio, chi ci può stare? Sì, ma mi hanno sottolineato di dirlo, ok? Va bene, allora siamo pronte e preparate. Cosa hai preparato? Va bene, ragazze. Allora, io mi sono un po' collegata appunto al discorso tra il corpo e la violenza di genere, ovvero come esso si va a inserire all'interno appunto di questa lotta. E questo sì, si può vedere ovviamente nell'arte. L'arte è una grande testimone di quelle che sono le evoluzioni sociali e anche politiche della nostra storia. Quindi se noi consideriamo per esempio il corpo come una sorta di interfaccia, ovvero una superficie sulla quale sono iscritti molteplici codici, come per esempio appunto la razza, il sesso, la classe, l'età e così dicendo. Insomma, noi capiamo che il corpo è una costruzione culturale che capitalizza energie prodotte in modo affettivo e inconscio. Ovviamente, che cosa ne deduciamo? Che questa visione di questo corpo ci obbliga a considerare la sessualità come il processo ed elemento costitutivo di esso. Questa materia sessuata, ovvero il corpo, deve necessariamente attingere dall'esterno, quindi noi siamo influenzati ovviamente da tutti i codici esterni che sono stati precostituiti per diventa evidente appunto come tutte queste influenze esterne creino una connessione nella dimensione del sociale, nella dimensione dell'ambientale, del politico, e quindi il corpo è che cosa? Una materia sessuata individuale, e di conseguenza all'interno dell'evoluzione della concezione di esso si può capire l'evoluzione dell'emancipazione della donna in realtà. E perché? Perché questa materia sessuata è in questo modo da considerare strettamente legata a una dinamica di potere. Quindi si va a creare la differenza sessuale, la bipolarità sessuata, e quindi tutti questi sono non altro che modi di significare il potere in tutti i suoi sensi, negativi, repressivi quanto positivi. E ovviamente questo porta a che cosa? Alla violenza di genere. E se appunto l'io si comprende che è un'entità costruita, emotevole, identificabile con un corpo, soggetto e autore oltretutto della propria narrazione, si capisce che solo attraverso la riappropriazione del sé e della propria storia si poteva costruire e costituire questo io al di fuori di dinamiche repressive di potere. Quindi, insomma, per capirci meglio, cos'è che succede? Che a un certo punto le donne capiscono, e anche molti uomini chiaramente, capiscono che la costituzione della personalità e dell'individualità passa da che cosa? Da il nostro agente catalizzatore di tutto quello che ci coinvolge esternamente, che è appunto il corpo. E quindi cosa succede? Come si arriva a capire questa cosa? Bisogna fare un salto indietro, seguiamo un attimo la storia e la storia dell'arte. Quando è il momento in cui si capisce che, insomma, il momento in cui noi comprendiamo che non è più un Dio, non c'è più un'entità, ma c'è la supremazia dell'uomo, ed è durante, fondamentalmente inizia tutto questo durante l'illuminismo e la rivoluzione francese. Cosa succede durante la rivoluzione francese? Che le donne scendono a lottare, iniziano a lottare per l'indipendenza, un'indipendenza collettiva. E cosa succede nella storia dell'arte? Come veniva identificato fino a quel momento il potere? Il grande fallo, ok? Era il potere centrale. E invece adesso, che cos'era l'opposto del potere centrale uomo? Ok? Era la Repubblica, era la donna. E quindi vediamo già un cambiamento di codice, vediamo già questo appunto cambiamento di identificazione del sé all'interno del corpo maschile. E detto questo, dov'è che si va a finire? Si va a finire nei diritti dell'uomo, ovvero con il codice di Napoleone si affermano per la prima volta i diritti dell'uomo, a mettere appunto in discussione la centralità di Hera e iniziano a circolare nuove idee, cioè il diritto alla critica, l'autonomia, la libertà della soggettività, la considerazione che gli esseri umani erano naturalmente uguali e quindi che la discriminazione sessuale era innaturale. L'uomo è stato con quali diritti all'interno del matrimonio e alle donne dovrebbero essere grazie e in questo momento iniziano ad esserci appunto le rivendicazioni di uguaglianza e ci sono appunto che cosa? L'inizio della richiesta del diritto al voto. Quindi vediamo come una riappropriazione del sé diventa importante per una rivendicazione, ok? E questa storia va avanti e per esempio cosa succede all'interno, cosa vediamo a fine 800, vediamo e a inizio 900, vediamo, ce lo testimonia l'impressionismo, vediamo che c'è uno sguardo diverso sulla società, vediamo che si entra nel privato e ricordiamoci adesso che negli anni 70 il personale era politico, lo slogan era il personale politico e quindi appunto nell'impressionismo vediamo un altro fenomeno, ovvero che la storia dell'arte non ci racconta, ma che esistono le donne, l'impressionismo inizia a lottare per l'indipendenza dalle accademie, per un nuovo sguardo verso la realtà e anche le donne lo fanno, anche le donne si mettono a dipingere e nonostante non potevano entrare nelle accademie e tutto il resto, però loro ci trasportano in una dimensione intima, corporea, privata. Gli uomini impressionisti ci raccontano della luce, della luce sulle superfici, sull'impressione, abbiamo le ninfee, abbiamo grandissimi paesaggi. Invece le donne di quel momento, come Berthe Morisot, che nessuno ci racconta, ma è una delle pioniere dell'impressionismo, loro ci portano all'interno della dimensione privata. E con essa inizia che cosa? Una nuova forma di arte, un'arte femminile, uno sguardo finalmente femminile. Quindi arrivano soggetti tratti dalla quotidianità, i bambini, gli interni domestici, i ritratti di famiglia, che per un verso è vero, sono lo specchio della ristrettezza del loro ruolo femminile, ma dall'altro riflettono un approccio lirico, un occhio attento e sensibile nei confronti di una vita e di tutte queste forme della vita, quindi la propria identità e il corpo, la sessualità, l'aspetto del sé diventano di radicale importanza. Perché cosa? Per capire e codificare che finora l'unico modo appunto per codificare il mondo era il maschio. E quindi il maschio era la norma e la donna era l'alterità. Ok, tutto questo si riafferma nel Novecento, nonostante appunto la prima ondata femminista delle suffragette, c'è un interesse ancora diverso durante gli anni 70 e per esempio vi leggo una frase di Nelly Richard, dice: il corpo diventa il luogo per eccellenza per trasgredire i vincoli del significato che tutto il discorso sociale prescrive come normale. Viene messo in discussione tutto, ogni maschera che ha dovuto indossare, ogni violenza che ha dovuto subire. Quindi la donna non è più quella oggetto di proprietà altrui, ma dichiara la sua individualità e esercitando questo diritto all'autodeterminazione a decidere anche della propria sessualità. Quindi, e cosa succede in questo momento? Che vediamo i manifesti, che si appropriano di che cosa? Delle iconologie storiche, destrutturandole però, e ricostruite secondo nuove semantiche. Quindi non più donne che aspettano. Avete presente le pubblicità anni 50, no? Dove c'è la donna che dice grazie al marito, Andrea, che gli regala l'aspiratore. Andrea, tra l'altro mi viene in mente, da quello che hai detto adesso, un discorso invece anche di riappropriazione delle parole. E secondo me con il termine riappropriazione c'è anche molto di corporeo. Non so, mi viene in mente per esempio tutto il discorso anche siamo streghe, no? Cioè che i movimenti femministi attuali, no? Contemporanei riprendono questa parola con cui centinaia di anni fa le donne venivano uccise, invece adesso diventa una rivendicazione, e credo che si riallaccia molto anche a quello che stavi dicendo adesso. E non lo so, mi piace trovare tutti questi collegamenti. Sì, anche no, ma della infatti presenza, sì, cioè, cioè della volontà a un certo punto del femminile di essere rappresentata in un altro modo a livello iconografico e artistico. E la cosa... Sì, ma non solo, anche lì, cioè nel senso, il codice è proprio, prende tutte le forme, le forme d'arte e proprio le forme di comunicazione, perché l'idea è quella che noi siamo influenzate da un'educazione diretta e indiretta, ovvero da un'educazione anche visiva, linguistica, e ovviamente questi sono tutti codici che noi inconsciamente inglobiamo per creare la nostra personalità. Quindi se io storicamente so che la donna non è capace di dipingere e tutti ti dicono così, per millenni chiaramente tu donna nasci con l'idea del io non lo saprò mai fare, certo. Ok, e l'idea era proprio rompere tutte queste dinamiche, e da dove passare, qual era il primo punto dal cui partire per effettivamente riappropriarsi della propria identità, ma non di un'identità, diciamola, di genere, nel senso che proprio loro a un certo punto iniziano a raccontarsi la loro storia, iniziano a studiare la storia del femminile. Questo è importante perché si capisce l'esclusione, si capisce come le cose non siano state raccontate in una totalità e in un'integrità, ma secondo appunto uno sguardo di un maschio bianco occidentale. L'idea era quella, ovviamente. Poi per esempio appunto nel Novecento questo si esaspera, nel senso che per esempio una delle figure maggiori che utilizzano per denunciare questa cosa è proprio esasperare i ruoli che venivano imposti dalla nascita. Quindi la madre, la vergine, la puttana, la brava figlia, insomma tutti vengono riaffrontati ed esasperati, ma non solo. Per esempio vediamo una Valley Export che va nel cinema porno di Monaco e tagliati e inizia a mostrare a tutti il proprio membro. Però immaginiamocelo fatto negli anni 60, ok? Barbara Kruger riempie lei lavora tantissimo con la pop art e il linguaggio, per esempio, e crea queste stanze con dentro scritte che dicono il tuo corpo è il tuo campo di battaglia. Judy Chicago a Los Angeles realizza per esempio questo dinner party che è una sorta di pranzo, di tavolata, ok? Pensata con le grandi dimenticate della storia, quindi ogni piatto è dato a una grande della storia che però non è stata considerata. O nel cinema, Yoko Ono, la fidanzata di John Lennon, oltre a Imagine, ha fatto moltissime opere e soprattutto moltissimi film. Lei per esempio utilizza il video e filma e scrive questo, fa questo video che si chiama Rape. Poi vediamo Marina Abramovic, Anna Mendieta dichiara, appunto dice che la sua arte è un dialogo tra il paesaggio e il corpo femminile, ok? Quindi vediamo come proprio a un certo punto, da tutti i punti di vista, abbiamo appena visto da un punto di vista letterario ancora oggi, da un punto di vista grafico, da un punto di vista illustrativo, da un punto di vista pittorico, da ogni punto di vista lo guardiamo, il corpo e la riappropriazione del corpo è un elemento fondamentale per ricostruire la propria identità nella, in generale nella storia del femminismo anche. E con questo tra l'altro ci ricolleghiamo anche con l'intervento precedente di Giulia. Esatto, cioè in pratica la cosa molto bella è che praticamente tutte hanno cercato in loro stesse la loro musa. Esatto, okay. Esatto. E io con questo concluderei, perché certo, mi sono dilungata anche un po'. Quindi, no, scusami, una cosa interessante che era venuta fuori preparando la puntata è proprio che il femminismo ha uno spazio nell'arte, è un'avanguardia artistica, e questo discorso lo sottolinea più volte, nonostante probabilmente sì, sia un po', anche negli studi artistici, lasciato in disparte, ecco. Ma penso che non ci sia, hanno fatto forse una delle prime mostre in cui viene quest'anno, l'anno scorso, che è stata appunto considerata, dove il femminismo è stato considerato come avanguardia artistica, perché il femminismo, nonostante abbia comunque lanciato e adottato dei nuovi medium, delle nuove forme quindi artistiche, e cercando nuove tematiche oltretutto, non è mai stato considerato come per esempio appunto l'impressionismo, il cubismo, il surrealismo, hanno fatto esattamente le stesse cose, però non è mai stato considerato come forma d'arte, perché il femminismo ha questa cosa che lotta in maniera interdisciplinare, e da sempre, cioè ogni disciplina lotta allo stesso modo. E appunto anche da un punto di vista artistico questo è grave, perché non viene considerato proprio. Certo, quindi doppiamente grazie per il tuo intervento, hai fatto un excursus artistico storico enorme in pochissimo tempo, quindi complimenti, davvero molto interessante. E grazie ragazzi. Speriamo di risentirti presto, quindi una nuova voce per le ribelli. Yes. Grazie Andrea. Ciao ragazze. A presto, ciao. Ciao. Ciao, ciao. Buona serata, ciao. Ok, allora io ho preparato la prossima canzone, Marti. Che brava, Gioia. Vuoi annunciarla tu? Yes. Vai. Ascoltiamo Duffy con Mercy. Got me on my knees. isso mesmo, hein? Sentar no cabeção, rebolar até o chão, trava com cabeção. Bom dia. Não tenho dó nem piedade, trava, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Gosto de boy sem camisa, já chega bem abusado e me pega bem gostoso. Meu nome é Lia Clark e aqui não tem frescurinha. Gosto que pegar de jeito com a mão na minha calcinha. Eu quico, sempre rebolo até em cima da mesa. Na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa. Agora senta no chão, deita devagarinho, fecha até os olhos e não faz piquinho. Ali é bem direta, não tem beijo na boca. Eu vou direto ao ponto. Eu sou menina, eu sou garota. Então prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Prepara pro trava-trava. Trava. Não tenho dó nem piedade, trava é com vontade. Me encarar nessa parada tem que ter dignidade. Eu quico, sempre rebolo até em cima da mesa. Na hora do rally rola, você vai ter uma surpresa. Bom dia. Eccoci qui, abbiamo ascoltato Trava Trava, come avete potuto immaginare il titolo della canzone, di Lia Clark. E adesso possiamo continuare con la scaletta, spero che vi siate rilassati un po' tutti, anche se la musica faceva più ballare che rilassarsi. Ma d'altronde si parla di corpi, quindi muoviamolo ogni tanto. Esattamente. Quindi io ringrazio ancora di cuore la nostra Lady J preferita, e, perché davvero queste ultime due canzoni in particolar modo secondo me spaccavano un sacco. E quindi grazie, e direi che possiamo passare quindi al terzo intervento della serata. Sì. Ascolteremo Sara. Esatto, a brevissimo ormai chiameremo Sara Carnovali. Sara Carnovali è una dottoressa di ricerca in diritto costituzionale che vive a Milano e autrice di diverse pubblicazioni in tema di diritti delle persone con disabilità, discriminazioni multiple, diritti sociali, migranti e giustizia costituzionale. Quindi noi abbiamo deciso di sentire Sara in questa puntata, intanto la chiamo, perché lei ha fatto questa grandissima ricerca sulla donna e sul corpo delle donne con disabilità, quindi ci sembrava assolutamente in tema. Eccomi. Ciao Sara, ciao. Sei in diretta. Ciao. Su Radio ZM. Benvenuta. Grazie mille, grazie per l'invito, che mi fa molto piacere. Come stai? Bene, bene, tutto a posto. Un po' bloccata in alcuni progetti causa pandemia, ma se ne fanno altri comunque, in qualche modo. Bisogna reinventarsi in questo periodo. Esatto, un po' tutti. E hai sentito per caso la puntata finora? Hai sentito qualcosa? Ne ho sentita un pezzetto. Ne ho sentita un pezzetto, è molto interessante. Recupererò quello che ho perso, perché per motivi lavorativi purtroppo non ho potuto ascoltarvi per bene, ma recupererò sicuramente il podcast successivamente. Allora dopo ricordiamo i nostri canali. Ma dunque Sara, noi ci siamo sentite perché io ti ho conosciuta durante la presentazione del tuo libro Il corpo delle donne con disabilità, analisi giuridica intersezionale su violenza, sessualità e diritti riproduttivi, a Lemo, una bellissima libreria in isola, e ti abbiamo poi invitata qui a ZAM a presentare lo stesso libro. Ci sei tornata in mente qualche giorno fa quando stavamo preparando questa puntata sui corpi, il corpo violato, il corpo della donna. E quindi ci sembrava che il tuo lavoro e la tua ricerca fosse pertinente con questa puntata. E insomma, secondo me dà anche una visione. Sì. Nuova forse per noi, perché non trattiamo questo tema molto spesso, purtroppo, e sicuramente molto importante, se non fondamentale. Perfetto. Io vi sento un po' male, cioè okay. Sento un po' la voce lontana. Voi mi sentite bene? Sì, noi ti sentiamo benissimo. Allora okay. Adesso provo un po' a fare dei la regia. Va bene. quindi niente, io... Se vuoi partirei un po' a parlare del tuo lavoro, di quello che hai scritto, della tua ricerca. Certo, allora la ricerca è sulle discriminazioni multiple che vedono appunto un'intersezione tra due fattori, cioè tra il fattore donna, quindi le discriminazioni di genere tipicamente, e anche al contempo il fatto di essere discriminate perché il soggetto, appunto in questo caso la donna, ha una complessità identitaria che fa sì che tra le sue caratteristiche che appunto la determinano in quanto individuo, persona umana, ci sia un altro fattore di rischio che interferisce con il genere, che come sappiamo e come avete raccontato bene è uno dei fattori rischio discriminazioni, e ne sussiste anche un altro che è quello della disabilità. E mi sono interrogata su questi fattori perché seppur invece nell'ultimo periodo è un tema quello delle discriminazioni e delle violenze sulle donne con disabilità che sta emergendo, quello anche dell'invisibilità dei corpi in generale. Fino a non molto tempo fa era un tema di cui non se ne occupava quasi nessuno, se non magari in alcuni ambiti che però non erano quello giuridico, e quindi tutto il diritto antidiscriminatorio non si occupava delle discriminazioni sulle donne con disabilità. È importante perché se si prende in considerazione un solo fattore, quindi tipicamente nel caso delle politiche per l'inclusione delle persone con disabilità, il fatto di essere discriminato perché si ha una disabilità, e quindi l'esempio proprio di scuola che viene fatto in questo senso è quello dell'abbattimento delle barriere architettoniche o anche delle barriere alla comunicazione. Per esempio oggi in tempi di Covid uno delle discriminazioni più emblematiche è il caso delle barriere alla comunicazione, se per esempio una donna o anche un uomo è sordo e quindi la mascherina impedisce completamente qualsiasi tipo di comunicazione. Dall'altra parte le discriminazioni tipiche derivanti dall'essere donna. Se questi fattori vengono trattati con politiche di genere da una parte per l'inclusione delle persone con disabilità in un'altra in modo separato, si vede che la donna con disabilità non riesce ad essere intercettata nei suoi bisogni. E quindi subisce una discriminazione che in questo senso è multipla, perché si aggrava, quindi non è intercettata, non solo è discriminata appunto nella vita di tutti i giorni, ma addirittura è discriminata a livello istituzionale, perché le politiche che dovrebbero essere antidiscriminatorie, non con quelle che si occupano di donne, non contemplano la complessità identitaria di donne con una disabilità, e al contempo quelle che si occupano di disabilità non tengono in considerazione il fatto che non puoi trattare la persona con disabilità come un monolite indifferente rispetto alle questioni di genere. Certo. E quindi diciamo che il mio libro nasce da questa scoperta che ho fatto all'estero, in particolare facendo ricerca in Irlanda, e quindi quando sono tornata anche qui mi sono cercata di integrare questo tema, sviluppandolo in particolare nella dimensione del corpo. Perché in realtà le donne con disabilità vedono una discriminazione multipla in tutti gli ambiti della vita. Perché per esempio se si guardano le politiche del lavoro, c'è un gap di dipendente dalla disabilità, quindi il fatto di dover avere diritto al collocamento obbligatorio, e al contempo però se si guardano i livelli occupazionali delle persone con disabilità c'è il tipico gap di genere che vede le donne meno occupate degli uomini, quindi discriminazione multipla sia rispetto agli uomini con disabilità sia rispetto alle donne che non presentano una disabilità. Però su questo un pochino di letteratura c'erano degli studi su questo, mentre invece sulla dimensione del corpo c'era come un tabù, e quindi io mi sono occupata in particolare di tre ambiti che sono quelli della violenza, della sessualità e dei diritti riproduttivi, che sono quelli rispetto ai quali le donne con disabilità sembra che siano ancora maggiormente discriminate. Esatto, io infatti cioè, volevo proprio chiederti non so se vuoi parlarci di questi tre grandi argomenti che tratti nella tua ricerca, non so, partendo anche da la sanità, cioè quella che è l'accesso a, che hai raccontato prima ai servizi sanitari, e poi a me colpiva personalmente molto tutto l'aspetto della negazione della sessualità o dell'ipersessualità in alcuni casi, e insomma queste cose qua, se ti va. Allora, sì, in realtà questi tre ambiti sono molto correlati l'uno all'altro, nel senso che la negazione della sessualità, che è un tema che in realtà non è prettamente giuridico, ma afferisce più alla sociologia e anche alla filosofia del diritto, però io da questo sono partita perché poi non si riesce a fare un discorso che non sia sterile e fine a se stesso sulle norme, anche perché le norme sulle donne con disabilità non esistono. Anche se segnalo, diciamo, come elemento molto importante, che ovviamente è semplicemente un primo mattoncino che è stato posto, diciamo, dal Parlamento, però è sicuramente qualcosa di importante, dal nostro ultimo incontro che c'è stato, in realtà la presentazione del mio libro, in realtà qualcosa un pochino si è mosso, nel senso che sono state approvate delle mozioni parlamentari che impegnano il governo, il Parlamento a interrogare, a diciamo porre in essere una normativa che si attenta alle discriminazioni multiple sulle donne con disabilità. Quindi questo è sicuramente un elemento fondamentale, ma a parte quello non ci sono norme, e quindi anche il fatto dell'interrogarsi del perché non ci sono norme a tutela delle donne con disabilità nello specifico, ma appunto c'è questo grande doppio binario di cui parlavo prima, quindi le politiche di genere da una parte, i diritti delle persone con disabilità dall'altra, è proprio, si incardina in questa sorta di inessenzialità sociale o un'invisibilità sociale, che dipende anche dalla negazione del fattore corpo, e la negazione della sessualità delle donne con disabilità è poi fondamentalmente lo stigma su cui si incardinano tutte le dinamiche di violenza, sia tra individui che anche a livello istituzionale, che appunto sono delle violenze istituzionali che derivano dal non essere contemplate quando si legifera e si pongono le norme a tutela degli individui. La negazione della sessualità delle donne con disabilità tipicamente si incardina appunto sul credo, sullo stigma assolutamente falso del fatto che appunto le donne con disabilità non abbiano una sfera sessuale, riproduttiva, non... In questo senso, questo riguarda anche gli uomini con disabilità, però ovviamente con riferimento appunto alla capacità di concepire una vita, questo ha degli influssi ovviamente molto più discriminatori nel caso delle donne con disabilità. E questo comporta la negazione di diritti dal punto di vista istituzionale, quindi pensiamo alla mancanza di accesso ai servizi sociosanitari. Per esempio, da questo punto di vista, c'è uno studio del gruppo Donne WILM, che hanno un sito, ve lo consiglio, molto con delle banche dati rispetto ad articoli e interviste a donne con disabilità e a ricerche molto ben fatto. Hanno fatto uno studio nel 2013 con esperti anche sia di norme che di architettura, accessibilità e così via, per vedere qual era l'accessibilità delle donne con disabilità ai servizi di ginecologia ostetrica, e si vedono delle punte di inaccessibilità proprio di questi servizi. Quindi magari l'ospedale nella sua complessità è accessibile, non ha barriere architettoniche, si entra nei reparti tipicamente dedicati alla salute femminile e si vede come non ci sia uno spogliatoio accessibile, non ci sia un lettino di sollevazione, non ci siano delle strumentazioni che consentono alla donna di accedere. Pensiamo anche a una cosa che sembra banale, un apparecchio per effettuare la mammografia. Per effettuare, non so se sapete, la mammografia è necessario stare in posizione eretta, altrimenti non è possibile usufruire del servizio. E questo ovviamente discrimina moltissimo le donne con una disabilità motoria. E anche da un certo punto di vista un'invisibilità rispetto alla violenza, perché se la violenza si incardina in meccanismi tipici della violenza di genere, il fatto di non tenere in considerazione la sessualità delle donne con disabilità fa sì che volenti o nolente, magari appunto non essendoci necessariamente cattiva fede, ma proprio perché c'è un preconcetto, un pregiudizio, la violenza agita nei confronti di queste donne, se dal punto di vista per esempio sessuale, sfugge molto di più. E invece dall'altro lato c'è un altro mito che riguarda quindi il mito della sessualità, non sessualità, e dall'altra parte c'è un mito opposto che riguarda alcune donne, specie se interessate da disabilità psichiche o intellettive, che è opposto, cioè spaventa esatto, una ipersessualità, e questo comporta quindi diciamo, teorizza la necessità di tenere sotto controllo una sessualità sfrenata, e questo comporta invece degli abusi nel senso opposto in alcuni paesi non anche molto lontani dal nostro, pensiamo ai paesi scandinavi o addirittura la Spagna, Paesi Bassi e così via, vengono, o in alcuni stati americani, poi gli dipende stato per stato, l'Australia, pongono in essere sterilizzazioni forzate delle donne con disabilità, contraccezione forzata, e anche nel nostro ordinamento, specie per come è congegnata la normativa, si vedono delle lacune quanto all'acquisizione di un consenso che sia realmente informato, e quindi che si pongano in essere delle procedure adattate alla disabilità della donna per fare in modo che l'interruzione di gravidanza sia realmente volontaria come previsto. E anche qui si vedono dei coni d'ombra che anche nel nostro ordinamento, seppure diciamo queste pratiche sarebbero reato a differenza, quindi questo lo voglio sottolineare, che nel nostro ordinamento fortunatamente sarebbe reato, tuttavia la normativa, proprio perché non prende in considerazione nelle politiche, in questo caso di genere, sull'interruzione di gravidanza, il fattore di disabilità rischia di dare adito a possibili abusi. E quindi si vede come il tema della negazione della sfera femminile e sessuale delle donne con disabilità è proprio il centro su cui si incardina la violenza. È una violenza, per concludere, che è molto diversa da quella che si agisce sulle donne che non presentano alcuna disabilità e che è drammaticamente maggiore, cioè si stima, a seconda poi delle rilevazioni, che sia da 4 a 9 volte maggiore, da 4 a 10, ora non ricordo, c'è comunque una risoluzione piuttosto recente del Parlamento europeo su questo, maggiore rispetto a quella di genere sulle donne che non presentano alcuna disabilità, e già noi sappiamo quanto i numeri siano sconvolgenti. Ora, io nella mia ricerca ho cercato di evidenziare quali sono i fattori che determinano questo. Innanzitutto la presenza di una disabilità, che fa sì che si accresca la relazione, diciamo, di sottomissione e squilibrio di potere di genere, che è tipico anche del modello patriarcale, soprattutto se la persona che agisce la violenza è il curante, compagno, cioè, o il familiare, esatto, che è colui che si dovrebbe prendere cura della persona, quindi anche nella il senso di colpa maggiorato. E il fatto anche di aver paura di denunciare per la paura di perdere i mezzi anche proprio di sussistenza, di assistenza per la vita quotidiana. Certo, in si parla di dipendenza economica. Anche economica. Ma certo. Qui poi c'è proprio una dipendenza all'autonomia, cioè, no, nel senso. Esatto, sì, pensiamo per esempio a tutta la questione dell'igiene, in alcuni casi alla somministrazione di farmaci, di terapie, oppure anche all'alimentazione, all'idratazione, nel caso delle disabilità più gravi, che hanno un'autosufficienza tendente a zero. E poi, ecco, dicevi bene, c'è cioè tutto il tema della discriminazione, della dipendenza economica. Questo nel caso delle donne con disabilità è in senso molto più grave, perché pensiamo alla pensione di invalidità o tutte le, insomma, le provvigioni che vengono erogate dallo Stato in dipendenza dalla condizione di inabilità. Questo comporta, spesso questi soldi non vengono amministrati nell'interesse della donna con disabilità, ma vengono incamerati dalla stessa persona che agisce violenza. Questa violenza, che è una delle varie declinazioni della violenza, anche nel caso di violenza di genere, è una violenza economica che però vediamo come si struttura anche in maniera diversa, e che può essere in questo senso ancora più grave. Poi il fatto della genitorialità delle donne con disabilità, cioè il fatto che la donna con disabilità presenta dei figli, abbiamo visto, ci sono tantissimi studi su questo e anche casi concreti che mi sono trovata a esaminare o che le associazioni mi hanno raccontato, un timore fortissimo di denunciare, perché al contempo viene instaurata una procedura civile per la potenziale adottabilità dei figli, perché in questo senso è molto pervasivo anche negli operatori della giustizia, tra l'altro, lo dell'incapacità delle donne con disabilità come, cioè come derivante dalla disabilità senza quasi possibilità di prova contraria, e quindi c'è anche questo fattore, che peraltro è anche un tema che interessa adesso fortunatamente un po' di meno, interessati tribunali anche nelle donne senza disabilità. Pensiamo al delirio dell'alienazione parentale, della sindrome di alienazione parentale, che sappiamo che è assolutamente inesistente, per cui alcune donne vittime di violenza si trovavano tolti i figli perché c'era questa sorta di sindrome d'alienazione parentale che non ha nessun fondamento scientifico. Ecco, nelle donne con disabilità non si deve neanche ricorrere a quello, perché a volte c'è il pregiudizio che il fatto di avere una disabilità fa sì che tu non possa essere un buon genitore, tu non ti possa prendere cura del tutto, manco di te stessa, quindi figuriamoci di un figlio. E poi l'ultimo dato, e concludo, è quello dell'inesistenza, o la percezione, o il fatto che comunque una disabilità, pensiamo anche sensoriale, è una barriera, o comunicativa una barriera per chiedere aiuto. La percezione dell'inesistenza di servizi specifici per l'uscita dalla violenza di queste donne, oppure effettivamente l'inesistenza di questi servizi, perché moltissimi centri antiviolenza sono accessibili solo in via telefonica. Questo taglia fuori completamente tutte le donne con disabilità sensoriale e uditiva. Oppure alcuni centri non sono, pensiamo anche ai casi di rifugio e così via, non sono accessibili a donne con disabilità visiva, oppure molto più spesso con disabilità motoria, e quindi barriere architettoniche e così via. E quindi questa è molto discriminatorio, certo. Sì, in questo senso proprio a livello istituzionale. Ma tra l'altro, cioè, caspita, dalle tue parole sembra proprio che, cioè, adesso non è che casco proprio dal pero, però hai descritto bene il fatto che queste persone alla fine è come se non venissero prese in considerazione in quanto persone. Tra l'altro tutta la parte della sterilizzazione forzata o dell'interruzione di gravidanza a questo punto, volontaria o no, non poco importa, perché tanto è una decisione che quasi la donna non prende, o quella del dare in adozione ai figli, non so se mi ricordo bene, dimmi tu, è chiamato nel best interest della donna, no? Quindi nell'interesse migliore suo, per lei, nonostante non venga presa in considerazione. Certo. Poi ci sono alcuni ordinamenti che utilizzano, per esempio nel caso, il nostro ordinamento fortunatamente no, il nostro ordinamento rispetto ai diritti riproduttivi ha proprio delle lacune, perché se noi guardiamo la legge 194, l'articolo 13 parla della donna interdetta. Ora alcuni tribunali, fortunatamente dal mio punto di vista, non interdicono neanche più, per esempio il Tribunale di Milano, nel caso di disabilità intellettiva, psichica o così via, di solito viene fatta un'amministrazione di sostegno. Quindi c'è il tema di come interpreto io, giudice, la norma, visto che mi sta parlando di donna interdetta, ma se invece ha un'amministrazione di sostegno, oppure, come succede nella stragrande maggioranza dei casi, visto che spesso chi si prende cura e dovrebbe fare le segnalazioni per avere, per esempio, l'amministrazione di sostegno, è la stessa persona che agisce la violenza, quindi si guarderà bene da fare ciò. Quindi molto spesso si tratta di quella che giuridicamente viene chiamata un'incapacità naturale, cioè un soggetto che non ha alcuna, diciamo, disabilità dal punto di vista formale, però ce l'ha e non è stata in alcun modo riconosciuta. E quindi ovviamente la giurisprudenza tende ad allargare le maglie e a interpretare in maniera estensiva, però ogni giudice ha libertà interpretativa, quindi non è detto che si a fronte di casi analoghi si arrivi al medesimo risultato. Quindi abbiamo anche un problema di fronte a casi analoghi di corrispondenza col principio di eguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione, perché dipende dalla discrezionalità del giudice. E al contempo l'articolo 13 mi parla anche, non fa riferimento alle procedure di acquisizione del consenso, e quindi io, secondo l'interpretazione più evoluta, devo comunque fare riferimento a tutte le procedure di acquisizione del consenso che noi conosciamo nel caso di interruzione di gravidanza, per cui c'è la prospettazione di tutte le possibilità, c'è un accompagnamento psicologico e così via. Il problema è che questi articoli non fanno riferimento alla possibilità che la donna abbia una disabilità, e quindi se ha bisogno di un interprete in lingua dei segni, io come faccio? Se c'è una donna con disabilità intellettiva, io come faccio? Cioè, come posso io riuscire ad acquisire un consenso che sia realmente informato? E questo pone dei problemi grossi dal punto di vista della compatibilità anche con la Convenzione delle Nazioni Unite sull'articolo sulla salute, l'articolo 25, che afferma il dovere degli Stati membri di porre in essere delle procedure di acquisizione del consenso informato che tengano conto della disabilità, che sia fisica, motoria, che in questo caso ovviamente è un problema diciamo molto più risolvibile, oppure sensoriale, quindi anche pensiamo anche dei centri antiviolenza, agli opuscoli, cioè se io sono una persona cieca e mi reco in un centro, mi reco da qualsiasi parte, anche in ospedale, gli opuscoli sono tutti, non sono mai accessibili a donne con disabilità, come dire, visiva. Oppure della disabilità intellettiva, e anche la Convenzione delle Nazioni Unite pone in essere, statuisce l'obbligo di una formazione degli operatori sanitari sulle varie tipologie di disabilità proprio per l'acquisizione, si dice, del consenso informato che sia rispettoso dei diritti umani. Ecco, su questo c'è molto da lavorare, direi. Sì, direi di sì. Direi che, vabbè, possiamo chiudere qui. C'è una domanda che però ti devo fare, perché mi hanno chiesto se in Italia esiste e in che modo quella che è l'assistente sessuale, maschio o femmina che sia. L'assistenza alla sessualità? Esatto. Ok, allora in Italia non esiste una legge sull'assistenza alla sessualità per le persone con disabilità. Anche se già c'è in Parlamento, è stato depositato un progetto di legge a cura del comitato cosiddetto Love Giver, che fa riferimento a Massimiliano Olivieri e al suo staff. So che loro si sono occupati, diciamo, come associazione della formazione e anche di far partire in qualche modo un progetto di assistenza alla sessualità. Tuttavia non c'è una cornice legislativa, quindi dal punto di vista legale questo pone delle problematiche non indifferenti anche sotto il profilo penale, perché comunque l'assistenza alla sessualità in questo senso, se non mi sbaglio, anche perché in questo senso sarebbe a livello privato, percepisce un compenso per il lavoro svolto e quindi ovviamente la remunerazione di prestazioni che comunque sono, in realtà non sono solo sessuali ma anche di educazione alla sessualità, ma contemplano anche atti di natura sessuale in cambio di denaro, dal punto di vista del nostro ordinamento penale delle problematiche ovviamente le pone. E laddove invece si ponesse in essere, cioè ci fosse una cornice legislativa e soprattutto queste prestazioni venissero erogate magari in regime in qualche modo pubblico-privato o comunque ci fosse una partecipazione del pubblico, forse questo problema sarebbe più ridimensionato. Io di questo tema, quindi da questo punto di questo è ciò che so a livello giuridico. Di questo tema non me ne sono occupata nello specifico, perché in realtà statisticamente è un tema che sembra interessare molto più gli uomini con disabilità rispetto alle donne con disabilità. Anzi, diciamo, i casi che mi ero trovata a vedere io erano di donne con disabilità che avrebbero voluto esplicare la propria sessualità, i propri diritti riproduttivi e che avevano visto degli ostacoli in questo e una negazione dei propri diritti. E quindi l'impressione è che, almeno rispetto alle storie che ho notato io, non ci fosse necessità che qualcuno si attivasse, lo Stato o per esempio, far fruire questi diritti dal punto di vista quindi di un'attivazione, ma semmai ci fosse la necessità di evitare l'attivazione da parte di altri nella negazione di un diritto. E quindi è stato il motivo per cui io non me ne sono occupata, anche perché appunto statisticamente è un tema che coinvolge molto di più gli uomini. È un tema molto delicato, quindi se volete anche la mia opinione personale, è un tema molto delicato perché coinvolge da una parte un diritto fondamentale della persona, che è un diritto alla sessualità, e non mi troverete mai ad affermare il contrario, infatti l'ho detto più volte nel libro con riferimento al diritto alla sessualità, che è un diritto fondamentale della persona e c'è giurisprudenza sia costituzionale ma non solo su questo, e quindi il fatto di poter esercitare la propria sessualità è un diritto fondamentale. Dall'altro canto è vero che il tema, soprattutto perché coinvolge soprattutto donne, del fornire dei servizi sessuali in cambio di denaro è comunque un tema che pone dei problemi rispetto alla compatibilità con un ordinamento che dovrebbe vietare la mercificazione dei corpi. E quindi, diciamo, su questo devo ancora maturare un'idea concreta. Non me ne sono occupata, e forse è stata anche una fortuna da un certo punto di vista, vista la spinosità dell'argomento, proprio perché mi sembrava che, cioè, nei casi, diciamo, affrontati dalla mia ricerca, fosse un argomento in realtà che fosse molto marginale. Va bene. Direi che ci hai dato degli spunti di riflessione e hai anche aperto, secondo me, un vaso di Pandora, cioè il mondo delle persone con disabilità, delle donne con disabilità in special modo, e quindi spero che, insomma, ci si possa anche ritrovare e risentire più avanti, magari con più buone notizie, perché c'è molto molto da lavorare. Comunque ti ringraziamo di cuore. Grazie, davvero. Grazie a voi per l'invito, è stato un piacere. Mi risentirò attentamente la puntata specie di interventi che ho perso, e alla prossima allora. Grazie Sara, a presto. Ciao. Grazie, ciao. Buona serata, ciao, ciao, ciao. Allora, io ho preparato di nuovo la canzone che andremo ad ascoltare. E con nostra, insomma, sorpresa. Sorpresissima, direi. Io non so neanche se annunciarlo. Io la farei partire così. La facciamo partire. La facciamo partire così. Ok. Ricordiamo che è sempre Lady J che sceglie le tracce. Noi siamo contente così. Ascoltiamola. But I don't do too well with apologies. I hope I don't run out of time, cause someone call a referee. Cause I just need one more shot, have forgiveness. I know you know that I made those mistakes maybe once or twice. And by once or twice, I mean maybe a couple of hundred times. So let me redeem or redeem on myself tonight. Cause I just need one more shot. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now to say sorry? Yeah, I know that I let you down. Single piece of the blame if you want me to. But you know that there is no innocent one in this game for two. I go, and then you go out and spill the truth. Can we both say the words and forget this? Yeah. Is it too late now to say sorry? Cause I'm missing more than just your body. Oh, is it too late now? Say sorry. Yeah, I know that I let you down. Is it too late to say I'm sorry now? I'm not just trying to get you back on me. TGM TGM. Boom. Boom boom. Allora, ovviamente, allora, quest'ultima canzone ve l'annuncio, ma non posso dirvi il titolo della canzone perché è impronunciabile. È scritto in arabo. Ci sono dei limiti proprio. Posso però dire il gruppo o comunque la persona che è l'artista. Si chiama Dam. Poi cercatevi voi tutte le varie canzoni. Quella giusta, perché è davvero un titolo impronunciabile. Ovviamente la canzone precedente a questa non ha bisogno di presentazioni. Quindi vabbè, grazie ancora a Lady J. Noi adesso andiamo avanti con la scaletta, però sì. Prima Martina voleva leggerci qualcosa. Ma sì, io parlando un po' con Sara mi sono illuminata e rileggendomi in realtà qualche pezzo del suo libro oggi pomeriggio, sono andata a cercare in libreria un altro libro che mi sta molto a cuore, che è L'istituzione negata, a cura di Franco Basaglia. Perché in realtà Sara lo cita nel suo libro e ha a che fare molto con i corpi, nel senso che appunto lui parla di istituzione negata, possiamo parlare in questa puntata di corpi negati, a cui viene negata la libertà. Sara prima parlava anche di negazione alla sessualità e i manicomi secondo me sono un po' sono stati il simbolo di una negazione totale e totalizzante. Quindi cercherò di leggervi qualche riga di questo pezzo per poi introdurre l'ultimo intervento. È possibile esaminare le strutture dell'assistenza psichiatrica come forme di controllo della devianza. Si torna all'origine storica degli ospedali psichiatrici e a quella che è la giustificazione attuale della loro esistenza. Secondo l'opinione comune, le leggi statali e i loro regolamenti interni, la funzione costitutiva di tali istituzioni non è primariamente terapeutica, ma repressiva. Per quanto riguarda i contenuti di cui si parla, essi concernono anche l'ideologia del malato di mente e l'ideologia custodialistica. Su queste ideologie si basa la legittimazione di tutte le organizzazioni della violenza, che si occupano dei soggetti la cui devianza viene attribuita a disturbo mentale. L'immagine culturalizzata della follia e della sua repressione non contiene solo la giustificazione globale della psichiatria come teorizzazione specialistica eretta a tutela del sano, ma serve anche a riorientare i bisogni di libertà, definendo quest'ultima come libertà di ciò che è lecitamente sano, in contrapposizione alla follia, immagine di una libertà non tollerata. Con queste parole chiamerei Tecla. Allora la stiamo chiamando. Un attimo. E comunque beh, io direi che allora possiamo un attimo. Ah no, ci siamo, ok. Non so, sta squillando, credo, spero. Questo silenzio. Sì. Così la gente riflette a casa o pensa, oddio, è saltata la radio. Oddio. Eccoci. Ciao Tecla. Buonasera. Ciao. Che bello riaverti qui. Ma che bello anche per me, come sempre. Grazie dell'incipi, Marti, ma ci siamo iperconnesse. Ma qua siamo tutte iperconnesse. Questa è una puntata che vibra di connessioni, ragazze. C'è un'energia che mi allieta un sacco. Anche le canzoni infondono delle vibrazioni che fanno muovere i culi, le gambe, le tette, le guance, altre cose. Certo, certo, siamo super in connessione. Certo. Tecla, cosa ci porti? Benissimo, io faccio questa piccola premessa perché sono emozionatissima per questo intervento. Penso di non essere mai stata così emozionata perché porterò delle interpretazioni di poesie di Alda Merini, che è un'autrice a me molto molto cara. E spesso l'ho recitata, l'ho decantata. L'ultima volta che recitai Alda Merini fu proprio al Paolo Pini, l'ospedale psichiatrico che prima era il manicomio dove la Merini fu internata. E prima di questa cosa qui volevo anche sottolineare un po' l'importanza di tutti questi interventi che abbiamo fatto, perché appunto, come dicevo prima, trovo una grandissima connessione E trovo come ci sia una propensione della donna a conquistarsi uno spazio di cura del corpo, dove si vuole gridare un po' all'umanità intera, la propria lotta interiore, no? Lo abbiamo visto nella poesia di Rupi Kaur. Rupi Kaur, ho detto giusto? Vorrei fare Rupi una Kaur. gaffe. Rupi Kaur, ecco, ho detto sbagliato. Kaur, forse, Kaur. Kaur, scusate, sono anche un po' fusa oggi. E lo abbiamo visto nella storia dell'arte, con il femminismo, nella storia dell'arte, e lo vedremo di nuovo nella poesia, lo vediamo anche tutti i giorni nelle lotte femministe. E tra l'altro volevo anche citare quello che ha detto prima Andrea, che ha detto tutte le donne ritrovano cioè le donne ritrovano la propria musa in se stesse, no? Ho preso appunti durante la puntata. Ed è un po' quello che fa anche Alda nelle sue poesie. Intanto voglio ricordare che lei nasce nel 1931 a Porta Genova. E Alda è la poetessa di Milano, no? E infatti in tantissimi suoi libri di poesie lei descrive anche Milano, parla del Naviglio. E in particolare mi incentrerò sulla sua condizione nel manicomio, dove Alda trova nella poesia uno spazio, mi ripeto ancora, uno spazio di cura per alietare i suoi dolori. E trova la poesia lo usa come momento terapeutico, no? Come una forma d'arte. E sottolinea questo corpo torturato dagli elettroshock e cerca di, attraverso la poesia, di riappropriarsi di un sé che è stato denudato. E discriminato anche, no? Lei dice che, una poesia che poi sentirete dopo, che un pazzo non può e non deve amare nessuno, no? E da questa tua citazione volevo anche un po' ricollegarmi a quello che hai detto tu, Marti. Perché la Merini fu internata nel 1965 e uscì dal manicomio nel 1979. No, 1978, che è proprio l'anno in cui uscì la legge Basaglia. E da qui volevo leggervi un piccolo pezzo, una piccola citazione di Basaglia, che dice: non è importante tanto il fatto che in futuro ci siano o meno manicomi e cliniche chiuse. È importante che noi adesso abbiamo provato che si può fare diversamente. Ora sappiamo che c'è un altro modo di affrontare la questione, anche senza la costrizione, no? Perché stiamo parlando di corpi che erano costretti, erano legati, indossavano camicie di forza. E poi l'elettroshock, diciamo che toglieva l'anima, no? Ti cancellava i ricordi, serviva questo, no? E la Merini ha avuto questa grande forza di continuare a scrivere. E lei dice: decantavo l'amore, no? Ha sempre cercato una sorta di amore in tutto questo. E adesso direi che vi ho fatto una piccola sorpresina, tra l'altro, per questo intervento. Adesso, quando partirà l'audio, voglio che sarà proprio Alda a introdurre questo pezzo, quindi Ok, sono allora farlo partire. adesso devo fare lavoro da regia, se ricordo le istruzioni. Vada, io non sentirò nulla. Vai. A me mi hanno sterilizzato, avevo 39 anni, quindi a 39 anni ho finito di essere una donna. Credo che siano fatti gravi, soltanto che le brutture del manicomio stanno uscendo adesso, allora non se ne parlava. E questa è un po' la mia rabbia. Se io parlo di manicomi milanesi, erano un paradiso confronto a quello che si vedeva nel Meridione, una cosa mai vista, insomma, la violenza sulle donne. Io le ho viste veramente picchiare, violentare. Non ho mai visto una cosa così. No, ma i nostri manicomi, tolto l'elettroshock, se lei si piazzava a letto con la depressione, la lasciavano anche morire lì, ma però non è che venissero abbandonati. Io ho visto delle cose che poi non si sono mai dette. Ho conosciuto Gerico. Ho avuto anch'io la mia Palestina. Le mura del manicomio erano le mura di Gerico. E una pozza di acqua infetta ci ha battezzati tutti. Lì dentro eravamo ebrei e i farisei erano in alto e c'era anche il Messia. Confuso dentro la folla. Un pazzo che gridava ai cieli e li implorava ridendo. Noi tutti, branco di asceti, noi tutti dentro l'amore, eravamo come gli uccelli e ogni tanto una rete oscura ci imprigionava. Andavamo verso le messe di nostro Signore Cristo Redentore. Confinato dietro una rete, urlava a squarciagola tutto il suo male in Dio. Fummo lavati e sepolti, odoravamo di incenso. E dopo, quando amavamo, ci facevano gli elettroshock perché dicevano: un pazzo non deve amare nessuno. Ma un giorno, da dentro l'avello, qualcosa mi ha risvegliata. E anch'io, come Gesù, ho avuto la mia resurrezione. Sono tornata alla vita. Ma non sono salita ai cieli, sono discesa all'inferno, dove guardo stupita le mura di Gerico antica. La pelle nuda, fremente, che di notte raccoglie i sogni, la tua pelle nuda, fremente, che vive senza emozioni, paga soltanto del mondo che la circonda indifeso. La tua pelle non è profonda, resta soltanto una resa. Una resa a un corpo malato che nella notte sprofonda. Un grido tuo disperato a quello che ti circonda. La tua pelle che fa silenzio e lievita piano l'ora. La tua pelle di dolce assenzio forse può darti l'aurora, l'aurora tetra e gentile di un primo canto di aprile. È finita, giusto? Sì. Ma siamo tornate. Bene. Tecla, tu sei riuscita a sentire qualcosa? Perché noi abbiamo provato a fare... Io ho sentito tutto, sì, oh, ho sentito tutto. Oh, che bello, allora ci siamo riuscite. Bello, sì, bello. Sono molto, mi sono emozionata, aiuto, io quando sento Aldo impazzisco. E tra l'altro mi sono dimenticata, lo dirò adesso, che queste poesie sono tratte dal libro Fiore di Poesia, che è una raccolta, e queste qua sono proprio quelle che lei scrive in manicomio e intitola come Terra Santa. Cioè tutta la serie di poesie che si chiama Terra Santa. Voglio sottolineare come la Merini ha un modo molto particolare di scrivere, per questo è molto difficile interpretarla, perché lei non usa la punteggiatura, e questo è particolare perché si collega molto alla questione del corpo, perché quando le leggi devi praticamente trattenere il fiato, no? E quindi è come una liberazione, no? Lei si sente libera quando scrive, è un momento di libertà, quando legge anche, no? E questa è una cosa molto importante che volevo sottolineare. Tra l'altro, visto che avete sentito delle poesie molto importanti, imponenti, con un ritmo, diciamo, lo definisco pesante, anche se poi molto sentimentale, no? E soprattutto, ritornando anche un attimo indietro, lei prima ho registrato le sue parole e lei dice: sono molto arrabbiata, no? Perché queste cose non sono mai state dette, che le donne venivano violentate, venivano praticamente annullate, no? E quindi vorrei rendere un po' grazie a Lomerini perché ce le ha decantate queste poesie, queste urla di donna. E grazie anche a te, quindi, Tecla, che hai avuto questa idea e abbiamo avuto la possibilità e l'opportunità di ascoltarla. Grazie. Ma grazie a voi. E volevo, scusate se mi trattengo ancora, ma mentre ascoltavo un po' tutti gli interventi, anche quello sulla disabilità, molto bello, tra l'altro ringraziamo Sara, volevo leggervi in diretta un'altra poesia della Merini che è L'inno alla donna. Vai. E proprio per fare una conclusione, non me la sono preparata, vado. E non ha neanche un punto, quindi cioè proprio inizia e finisce senza una virgola. Tratterremo il fiato insieme a te. Stupenda, immacolata fortuna. Per te tutte le culture del regno si sono aperte. Tu sei diventata la regina delle nostre ombre. Per te gli uomini hanno preso innumerevoli voli, creato l'alveare del pensiero. Per te, donna, è sorto il mormorio dell'acqua, unica grazia, e tremi per i tuoi incantesimi che sono nelle tue mani. E tu hai un sogno per ogni estate, un figlio per ogni pianto, un sospetto d'amore per ogni capello. Ora sei donna, tutto un perdono. E così come ti abita il pensiero divino, fiorirà in segreto, attorniato dalla tua grazia. Ok, posso respirare. E questo era un po' per salutarvi e concludere così. Che bello, grazie Tecla. Ma grazie a voi, come sempre. Bene, bene, tra l'altro abbiamo un sacco di fan, oggi mi hanno scritto un sacco di persone su Instagram, e quindi ragazze siamo ormai sul pezzo. Tutte le persone che hanno voglia possono partecipare attivamente poi a queste puntate, al programma in generale. Quindi qualora qualcuno volesse, c'è spazio per tutte e tutti. Sì, sì, ho mandato tutti i contatti e penso che a breve avremo forse altre nuove voci. Chi lo sa? Speriamo, speriamo. Dai. Grazie, va bene, ragazze. Grazie davvero. Ciao Tecla. Grazie a voi. Ciao, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao. Che bello, c'è una canzone bellissima che ci aspetta. Cioè bellissima, comunque c'è una canzone che spacca. Vuoi annunciarla tu, Marti? Abbiamo Bad Guy di Billie Eilish. Shirt now red, my bloody nose sleeping. You're on your tippy toes creeping around like no one knows. Think you're so criminal. Bruises on both my knees for you. Don't say thank you. Oh please, I do what I want when I'm wanting to. My soul so cynical. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. you'll sing along with me. But she won't sing this song if she meets all the lyrics. She'll pity the men I know. So you're a tough guy, like you're really rough guy. Just can't get enough guy, just always so puff guy. I'm that bad type, make your mama sad type. Make your girlfriend mad type, might seduce your dad type. I'm the bad guy. Duh. I'm wearing your cologne. Che bad guy. Marty, sei una bad guy. Allora, noi adesso siamo arrivati in chiusura. In chiusura. Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato a, a costruire questa puntata. Ringraziamo Giulia, ringraziamo Andrea, ringraziamo Sara, ringraziamo Tecla, Jessica. E ringraziamo la nostra Lady J. E anche tutte le persone che non intervengono in radio ma che ci sono, Martina, Giulia, Maya, eccetera, eccetera, eccetera. Intanto io voglio ricordare per l'ennesima volta, così vi entra proprio bene in testa, i nostri canali, perché potete scriverci sul canale Telegram scrivendo chiocciola radiozam trattino basso chat. Potete riascoltare tutte le puntate sul il sito Archive. Lì proprio ci sono tutti i podcast della radio, quindi non solo i programmi delle ribelli. E potete anche trovarci su Instagram e su Facebook scrivendo Radio... Oddio santo, Radio ZM. E basta, basta, Radio ZM, si è avuto uno svarione. E niente, quindi adesso ci salutiamo. Sì, torneremo con altre puntate sui corpi. E il corpo, questa è stata la prima. Mm-hmm. E quindi anche se avete delle idee o non so, se volete costruirla insieme a noi, siete le benvenute e i benvenuti. Per la libertà dei corpi, direi, in tutti i sensi, vi lasciamo con gli altri pezzi, le altre tracce scelte da Lady J. E buonanotte, buona serata. Buonanotte. Magari dopo io non ci sono. Va bene, magari, va buonanotte. Allora, ascoltiamo Fire dei Black Pumas. Love. understand. Oh. But he just kept